Che effetto le fa essere la figlia di un mito? Come ha vissuto questa? È che non è un mito. Mi papà è un uomo. Il mito potrà essere per qualche altra gente, però per noi è un uomo. E questo è ciò che lo fa hermoso, perché se lui pudo, noi anche. Mi papà si convierte in un reto per la vita. Dice che il bello è che suo padre non è un mito, suo padre è un uomo. E se ha potuto lui, possiamo farlo tutti quanti. E dove sarebbe adesso? Se fosse vivo, se fosse in quale parte del mondo? Questa domanda è molto difficile, perché in questa età mio papà tendría 95 anni, più di 95 anni già. Así que sería, si estuviera vivo, molto viejito. Però, además de eso, la vita non sarebbe uguale, perché se mio papà hubiera vivido, significa che Argentina hace anni sarebbe un paese socialista, che Bolivia tendría muchas más posibilidades hace mucho tiempo, e por tanto la vita in Cuba también podría ser diferente. En ese sentido, por la unidad latinoamericana. Dice che sì, a questo punto sarebbe molto difficile capire cosa avrebbe fatto suo papà, perché sarebbe già con un'età un po' avanzata. Sicuramente se fosse vivo oggi sarebbe una realtà molto diversa, sia per l'Argentina che per Cuba. E qual è il ricordo più importante per lei di suo padre? Anche perché è morto che lei era piccola, sì, no? Sì, io tengo, decía antes, muy pocos recuerdos de mi papá. Realmente, muy attraverso sua madre, diceva, no? Muchos a través de mi mamá o de sus compañeros de lucha. Ellos, mira, una cosa que yo agradezco eternamente es, por ejemplo, haber tenido el privilegio de vivir al lado de hombres excepcionales y mujeres excepcionales de la Revolución Cubana. Dice che sicuramente tra i privilegi più grandi che ha lei è aver vissuto intorno a grandi uomini e donne della rivoluzione cubana, che adesso suo padre non ricorda così tanto perché era piccola, ma sua mamma ha trasmesso tanto amore e tanto y sus compañeros valore de combate. Su quello che era questa figura, oltre ai suoi compagni di lavoro. Io apprendi molto di mio papà a través di mia mamma, por supuesto, però a través di questi compagni. E lei ha scelto di fare il medico come suo padre? En questo... Realmente fue una manera de devolver a mi pueblo un poquito de todo el amor que he recibido, más que ser algo que mi papá había hecho. Lo que intenté fue dar un poquito, devolver un poquito ese amor que yo he recibido de mi pueblo. Dice que più que fare el médico per fare quello que ha fatto suo papà, lo ha fatto per restituire a questo popolo che tanto amore le ha dato il suo servizio, qualcosa di mettersi a disposizione. E com'è oggi la situazione a Cuba? Molto difficile. Trump ha peggiorato ancora di più le cose? Seguro, è algo serio lo che sta facendo este señor con el dichoso bloqueo. Pero ese bloqueo existe hace más de 60 años. Es quizás la acción más dura que se describe en la historia de una potencia económica y militar muy poderosa contra otro pueblo. Dice que es un bloqueo que se protrae de más de 60 años y es una acción realmente muy fuerte, muy dannosa de una potencia así como lo es los Estados Unidos contra un pueblo como Cuba. Yo les pongo un ejemplo sencillo, pero nosotros no somos productores de leche, no tenemos esa producción, ¿no? Pero hay que buscar leche en polvo para alimentar a nuestros niños, a nuestros ancianos. Y hemos tenido que ir a Nueva Zelanda a buscar esa leche en polvo porque nadie más nos las vendía. Dice, noi non produciamo il latte, visto che c'è il bloqueo e chi ovviamente tratta con Cuba non può lavorare più con gli Stati Uniti, siamo dovuti andare in Nuova Zelanda e solo lì siamo riusciti a trovare un fornitore. De leche en polvo. Di latte in polvere. Pero, ¿cuál es el problema? Si ves el mapa, ¿dónde está Cuba? ¿Y dónde está Nueva Zelanda? Ves que hay una gran distancia, ¿verdad? Entonces hay que pagarle a una naviera para que nos haga la búsqueda de ese alimento y lo traiga a Cuba. Pero por la ley del bloqueo, el barco que toque puerto cubano no puede volver a tocar puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. ¿Qué significa eso? Que hay que pagarle 3 y 4 veces más a ese dueño del barco lo que se le pagaría normalmente. Dice che se guardiamo la mappa e ce ne rendiamo conto della distanza che c'è tra Cuba e Nuova Zelanda, ce ne possiamo già capire i costi che abbiamo di trasporti, che sono importanti. In più la nave che tocca Cuba non può più toccare gli Stati Uniti per 6 mesi. Quindi anche il venditore, il produttore, la naviera che decide di importare un materiale o esportare un materiale con Cuba o verso Cuba ha delle sanzioni che sicuramente sono pesanti.